24 mattino. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No, tutti i giorni di primo mattino c'è anche Oscar Giannino. La filastrocca delle 8:17 ed è venuto il momento dei cani e dei gatti, e il gattone ha spostato di nuovo la telecamera per non farsi vedere, ma è lì, sentiamolo. Miau. Come miau? Ma perché ti sei nascosto? Ma, dalle, tutte le mattine, ma vedo un pezzo di cavo, ma voglio sapere come sei vestito. Eccolo e qua. Il cane? Va bene, allora, adesso non voglio dire, io avevo delle esitazioni a risponderti: il cane sei tu, perché sembra che invece no, delle parti nell'Italia che oggi è corsa a comprare chi per scoprire chi erano gli invitati alla festa di compleanno di Berlusconi, c'è delusione perché fra i 30 convitati della tavola rossa di Arcole non c'è Oscar Giannino. Dispiace. Guarda, mai sta. Sai cosa vuol dire? Mi pregio e mi fregio, come si suol dire, di non essere, di non essere mai commensale. Stato parte dei, e c'erano confalonieri. Però ti leggo il menù: antipasto di tempura al cartoccio, mozzarella e stracciatella, come i primi invece due risotti, uno giallo alla milanese, uno con il tartufino, un secondo col branzino in crosta, pane in crosta di pane, cotoletta alla milanese, il tutto accompagnato da un millefoglie di melanzana alla parmigiana, una selezione che sembrava studiata alla perfezione, lo dice chi, per unire gusto, leggerezza e tradizione anche in prospettiva del dolce, vale a dire due torte babà napoletani e piccola pasticceria. Ecco, ora che abbiamo dedicato l'incipit a questo problema fondamentale, possiamo aggiungere da parte mia un solenne, augusto, non troppo rispettoso, motivatissimo, bilioso, chi se ne frega? Perché a me di queste cose, sai cosa vuol dire? Meno dello zero assoluto, quello in cui proprio c'è la glaciazione totale e nessun, non ci sono neanche i moti brauniani. Ma l'Italia vuole sapere. Ma invece, che l'Italia vuole sapere? Cosa vuoi l'Italia che l'Italia deve sapere cosa si mangiava a quella tavola. Senti, ma secondo te il sindaco di Sauver, che ha citato il Mein Kampf per un discorso sui comuni, è stato beffato dal Ghostwriter? O proprio lui è andato a scartabellare, a dire va, cerchiamo una citazione, va, prendiamo Hitler? No, che dici? Guarda, chiunque sia stato il sindaco o il suo collaboratore, vista la scelta che hanno fatto a casa, questa è la mia idea, punto. Addirittura dimissioni, ma senza no, se senza mai. Stiamo parlando di persone che non hanno il metro elementare per condurre vita pubblica o per scrivere discorsi per una vita pubblica. Chi pesca citazioni al Mein Kampf, no? Tutto qui. Almeno su questo si può essere d'accordo nel nostro paese, oppure no, abbiamo sdoganato anche. Non mi meraviglierei no, più sono di nulla, d'accordissimo. Non mi meraviglierei più di no, nulla. No, io sono d'accordissimo e mi chiedo, cioè, secondo me c'è una regola che possiamo dire generale per tutti i politici: quando non sei tu che lo fai, ma è il tuo segretario, è peggio. Cioè, beh, il tuo segretario è colui a cui deleghi, è come se fossi te, è peggio che se non sei te. Vuol dire che per scegliere qualcuno meglio di te hai scelto uno peggio di te. E allora come puoi governare? In ogni caso, se hai questo la fiuto? Missione che hai detto prima di questo signore è la missione di una delega in condizioni di non poter esercitare il controllo. Cioè lui dice, sai, io non ci arrivo, non so farlo, quindi mi dedico a lui. Quindi in realtà è come dire agli elettori: voi avete eletto uno che non sono io, di cui io non ho il controllo. Questo vuol dire che e questo è anche vero, è vero, un limite di mandato. Bene, da dove partiamo, Oscar? Da che cosa vogliamo partire di bello? Io devo dire la verità, voglio solo fare una considerazione su un tema che da ieri mi amareggia. Cioè, a me ha molto colpito su questa vicenda lontana, cioè del grande produttore americano cinematografico Weinstein. Però mi colpisce una cosa: se star mondiali del cinema, cioè il meglio del meglio del... Sì, c'è una lista stupefacente, no? Attrici incredibili. Mira Sorvino. Però Angelina Mira Sorvino Jolie non ha ceduto, eh. Ecco, va bene, però Angelina Jolie, così via. Cioè, stiamo parlando di gente che insomma non ha un talento, ma soprattutto hanno una notorietà e una forza nel mercato cinematografico incredibile. Ecco, se star di questo caratura hanno taciuto in taluni casi per più di 20 anni, come io mi sento ridicolo come uomo e giornalista a dire a donne ordinarie denuncia subito, perché mi restituisce proprio l'idea di quanto sia pesante, terrificante nella ancora oggi e persino per donne affermatissime, figuriamoci per chi non ha nessuno che poi ti sostiene di fronte agli insulti che ti arrivano, dire denuncia. Ecco, questa cosa ce l'ho proprio come un groppo amaro, lo dico da padre, lo dico da marito. Gwyneth mi sono, Paltrow, ecco, Rosanna Paltrow, Arquette, no, Ashley Judd. Incredibile, questo ci restituisce l'idea di come Emily la cultura Nelson, maschile coniugata Angelina al potere, Jolie, perché in quel caso era il potere esercitato e il ricatto sulla carriera, però il ricatto sulla carriera non era su aspiranti e basta, e su gente che poi ha taciuto per decenni quando guadagnava pacchi di milioni di dollari e quando aveva un potere assoluto. Ecco, ci tenevo solo a dire questo perché è una vicenda che non ha a che fare con la Catalogna, con il Rosatellum bis, però mi pare una considerazione da fare. Allora, ho discusso a lungo via messaggi con un nostro ascoltatore che mi dice: sì, capisco le vostre critiche alla legge elettorale, però d'altra parte che come dobbiamo pensare se c'è una maggioranza del Parlamento che l'approva? E allora io dico il mio pensiero: sono tre leggi elettorali che fanno delle schifezze, due sono state già bocciate dalla legge elettorale sostanzialmente per lo stesso motivo che si perpetua in questa, cioè vogliono fare delle liste bloccate in cui noi non votiamo. E allora io ti devo dire che parto dalla legge, caro ascoltatore, non parto dalla maggioranza che lo sostiene, perché quasi non me ne frega nulla. Quello che voglio è una legge in cui possiamo scegliere almeno con il nostro voto quelli che mandiamo in Parlamento. Poi faranno bene e male, ma almeno li abbiamo scelti noi, non loro. Io ieri ho ritwittato due citazioni testuali dal programma delle primarie di Renzi del 2012. La prima diceva: deve essere chiara una cosa, tutti i parlamentari, nessuno escluso, devono essere direttamente scelti dai cittadini. Ecco, primo punto. Secondo, diceva, un'altra cosa deve essere chiara: i cittadini devono poter scegliere un leader in condizione di governare l'intera legislatura. Ecco, cioè, tutto ciò che il Rosatellum bis non è, sta in queste due citazioni, in questi due messaggi. Sì. Anche poi, le due frasi famose di Renzi: mai al governo senza un voto senza un voto degli elettori, e mai al governo con la destra. Queste sono, comunque, due, a me è piaciuto molto oggi il commento sulla stampa di Marcello Sorgi, mi ci ritrovo, perché questa legge finirà di sicuro, anche questa, come hai detto tu, alla Corte Costituzionale, e quindi ci sarà un nuovo Parlamento che, oltre a non avere la governabilità, perché, come ha scritto ieri la testata Politico, è fatta apposta per non dare un governo e per mettersi d'accordo dopo tra segretari di partito, oltre a questo ci sarà di nuovo un Parlamento delegittimato. Tutto questo perché i segretari di partiti preferiscono una legge elettorale in cui gli italiani non scelgano, oltre ai parlamentari, il governo, perché così si mettono d'accordo. Signori, questa si chiama truffa. Si chiama truffa. Poi allora, voi potete pensare che io sia tifo 5 Stelle, non è vero, però questo meccanismo è un meccanismo che dovrebbe essere sanzionato. Io spero siccome che sarà così. Ci piace discutere anche con chi ha idee diverse dalle nostre, Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno, buon mercoledì a chi in viaggio. Allora, tutti i giornali dicono la fiducia c'è perché Salvini e Forza Italia hanno dato via libera al governo. A parte il fatto che non sono d'accordo su quello che stiamo ascoltando, ma è il bello della democrazia. No, e questo diciamolo subito, però partiamo da questo. Secondo, io è dal 4 dicembre scorso, voi avete degli archivi poderosi, io vi seguo anche quando non riesco a seguirvi in diretta. Io dalla sera del 4 dicembre scorso, quando Renzi perse il referendum e peraltro disse mi ritiro dalla politica, vabbè, fa niente, che dissi l'importante è andare a votare e eleggere un Parlamento e un governo rappresentativi, portateci qualunque legge elettorale, proporzionale, maggioritario, con i collegi, senza collegi, con lo sbarramento al 3%, al 5%, al 55%, noi ve la facciamo passare e poi andiamo a votare. E c'è arrivato l'Italicum, è arrivato il Tedeschellum, è arrivato il Rosatellum, e coerentemente con quelle dichiarazioni la Lega ha sempre detto va bene, a me non interessa il tipo di legge elettorale, perché ogni legge elettorale ha i suoi pro e i suoi contro. Il maggioritario c'è chi piace, c'è chi non piace, a me piace. Il proporzionale avrebbe portato il casino, lo sbarramento basso, lo sbarramento alto, i collegi troppo piccoli, i collegi troppo grossi. Io penso che gli italiani ne abbiano le scatole piene. Vogliono che il Parlamento approvi una legge elettorale e vogliono andare a votare, perché poi sono più maturi rispetto a quello che i partiti pensano e sanno scegliere chi votare rispetto a quello che i partiti pensano, qualunque sia la legge elettorale. In passato provarono, quando la Lega era al 3%, non so se vi ricordate, 3-4 anni fa, volevano fare gli emendamenti salva Lega, metter la soglia per aiutare la Lega. E Salvini disse di no. E io dissi no, non voglio l'emendamento salva Lega. Se un partito ha i voti vuol dire che fa qualcosa di utile. Fu una grande intuizione perché motivò l'elettorato leghista. Uno mi dice che il Rosatellum è una figata, ma non è la migliore delle leggi elettorali possibili. Forse per me io le leggerei tutti col maggioritario. Quartiere per quartiere, a Ostia uno deve sapere chi elegge, a Taranto uno deve sapere il nome, il cognome e la faccia di chi elegge. Adesso ci hanno messo, il PD ha partorito questo un terzo di collegi con maggioritario e due terzi col proporzionale. E io gli ho ribadito, volete andate avanti così? Ovviamente non voto la fiducia, perché votare la fiducia significa sostenere un governo che per me ne sta facendo di cotte e di crude, dalla scuola alle tasse, all'IVA. Però la domanda, Salvini... Però cosa andiamo avanti? Altri sei mesi a dibattere di legge elettorale? Sì, ma la domanda che le ho fatto però, mentre è giustissimo il suo ragionamento con cui spiega la sua posizione, era che tutti i giornali, quindi è un caso raro, oggi dicono la fiducia, che è un fatto grave, è stata posta solo 3 volte in tutta la storia unitaria su una legge elettorale, è stata messa perché c'è stato un via libera di Lega e Forza Italia. Su questo mi dà una risposta se c'è stata o no. Ma guardi, tutti i giornali dicono che c'è la ripresa economica, le famiglie risparmiano di più e ci sono 1 milione di posti di lavoro in più, lo dicono tutti i giornali. Io ogni giorno che lavoro, ovunque io vada, non trovo famiglie che risparmiano di più, 1 milione di posti di lavoro, non so su quale pianeta dell'universo li abbiano trovati, quindi quello che dicono tutti i giornali non necessariamente mi affascina. Detto questo, io semplicemente ho detto non facciamo le barricate, non votiamo la fiducia, perché votare la fiducia significherebbe avallare le politiche di questo governo che, ripeto, dalla scuola allo spesometro, a tutto quello che all'immigrazione, non ne sta facendo una. Però dateci una legge elettorale, dateci una legge elettorale. Fra 2 giorni, fortunatamente, si parlerà di temi più caldi, perché ci sono aziende che stanno rischiando il collasso e soprattutto le piccole aziende dimenticate dal governo, artigiani, imprenditori, rappresentanti di commercio, partite IVA sono al collasso, e finalmente il Parlamento si occuperà di qualcosa d'altro, spero. Oscar, e no, poi la io pubblicità. Voglio semplicemente dire, Salvini sì, va bene, però voglio dire che il via libero da Berlusconi e che questa legge nasca per un accordo Berlusconi e Renzi, che io non mi metto mica a considerare la politica è fatta così. Ma io non farò mai un accordo con Renzi, col aspetta, PD, governi tecnici, aspetta, governi personali, la Lega non sosterrà mai i governi di questo genere. Secondo. Nasce da un accordo di questo tipo, sotto la luce del sole, e comunque io capisco la posizione della Lega che dice andiamo a votare. Da tempo è vero quello che ha detto... Ma non è che come osservatore posso non notare che le leggi elettorali non sono indifferenti, perché ci sono quelle che consentono, raccolti un po' di partite, un po' di voti, di governare, e quelle che invece lo impediscono. Questa serve alla seconda cosa, e Oscar, bisogna che gli italiani lo sappiano. Oscar, se non passa, se facciamo che non passi questa perché ci sono i voti segreti, e anche questo secondo me è assolutamente irrispettoso. Sono d'accordo. Nei confronti di chi ci ascolta, che ha votato il parlamentare tizio, il partito tizio, e vuole sapere che cosa vota, non nel segreto dell'urna perché non gli hanno garantito la ricandidatura, allora col voto segreto. Esatto. Secondo me il voto segreto andrebbe abolito. Hai una faccia, hai una dignità, voti con la tua faccia e con la tua dignità. Ma facciamo che col voto segreto, perché c'è gente che non viene ricandidata, viene bocciata questa legge. Con che sistema andiamo a votare? Con la vecchia legge del proporzionale puro. Sì. Quindi c'è l'anarchia. Il consultellum. Il ma secondo me è meglio il consultellum. Però ci fermiamo un attimo per la pubblicità e torniamo perché sono proprio pochi secondi. Ma fammi ridere, fammi ridere. Caro ascoltatore, Simone, fammi ridere. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International. Soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Mattino. Rieccoci, Cani e Gatti, Luca Telese, Oscar Giannino, guest star, ospite Matteo Salvini. Le vostre telefonate all'800 24 00 24, i vostri messaggi in segreteria telefonica al 02 30 22 44 92. Allora Salvini, solo una cosa sul voto segreto: ma se è l'unico modo per poter evitare in un Parlamento di nominati che si esprimano voti contro il proprio parere, ben venga. Cioè, io preferisco che uno voti a voto segreto quello che pensa, per esempio, che questa legge non gli piace, piuttosto che voti sì sapendo che potrebbe non essere ricandidato, visto che le liste sono bloccate, le fanno solo i leader di partito. Ma guardi, noi avevamo proposto, quando Renzi lanciò il suo referendum, di modificare anche l'articolo della Costituzione sul cosiddetto vincolo di mandato, perché per quanto mi riguarda, se vieni eletto con quel partito e con quel programma e per giocare in quella squadra, se durante la partita decidi di cambiare partito, cambiare squadra, cambiare maglia, cambiare programma, ti dimetti. Perché va bene la coscienza personale, eccetera eccetera, però a me quelli che cambiano 18 partiti con la frequenza con cui si cambiano le calze la mattina non stanno particolarmente simpatici, men che meno mi stanno simpatici quelli che si nascondono dietro il voto segreto perché sono incazzati perché sanno che non vengono rieletti. Quindi ripeto, nel migliore dei parlamenti possibili non c'è il voto segreto, non c'è il voto di fiducia, non c'è il cambio di 18 partiti. Siamo a metà ottobre 2017. Durante la pausa mi ha mandato un messaggino Alessandro che mi dice: toglietemi il redditometro, lo spesometro, come si chiama, perché mi sta massacrando. Ah, sono d'accordo. Questa è la vita reale. Sono d'accordo. Quindi approvi nostra legge elettorale senza il voto di fiducia della Lega, ma non sto lì a fare le barricate. Sì, però Salvini, non è che siamo, non è che sono i giornalisti a fare la commedia sulla legge elettorale, sono i leader di partito. Sono Renzi, sono Renzi e Berlusconi. Perfetto. La Lega in Parlamento ha 30 parlamentari. Ma infatti non ce l'ho con lei. Però è così. 30 su 900, quindi potrebbero proporre qualunque cosa, ma noi in 30 su 900 non è che siamo vincolanti. Posso cambiare argomento? Né nel male. Posso cambiare quindi, argomento? No, ma figurati, guarda, io sto. Lo so, perché stiamo dedicando. Ho risposto veramente a un po' di mail, esatto, che si parla di studi di settore. Io giovedì mattina sono a Bruxelles perché stanno cercando di portare avanti un accordo disastroso, secondo me, per riconoscere lo statuto di economia di libero mercato alla Cina. Che non passerà, che, spero, che perché ci sono buone ragioni per non farla passare. Perché vorrebbe dire togliere dalla sera alla mattina 52 protezioni tarifarie nei confronti di 52 prodotti europei, di cui la metà italiani, carta, ceramica, vetro, biciclette, conto che sarebbe un massacro per la nostra economia. Ma Salvini, posso chiedere una cosa prego, vai. Che è relativa ai referendum del 22, in arrivo, perché oramai manca poco, no? Cioè, Berlusconi non si impegna. Valutazioni sue, anche se mi piacerebbe sapere dal suo punto di vista che cosa ne pensa di questo. Secondo, però, sul risultato, secondo Salvini, quello che sta succedendo in Catalogna avrà effetti, minore partecipazione, che si aspetta? Beh, sicuramente le immagini di sangue che arrivavano a Barcellona spaventano me. Dici, ma come? Uno vuole votare in fila per votare al seggio e viene manganellato dalla polizia a 70 anni e portato di peso fuori dai seggi. È per questo che in Lombardia e in Veneto abbiamo percorso una strada completamente diversa, con un referendum legittimo, riconosciuto dalla Corte Costituzionale, che riprende un articolo della Costituzione, che chiede a 15 milioni di veneti e lombardi: volete avere qualche potere gestito a livello locale in più sull'organizzazione scolastica? Ad esempio, da papà, o mio figlio a scuola da un mese e ci sono ancora cattedre scoperte. I giornali non ne parlano, però ci sono migliaia di ragazzi in classe senza insegnante, anche insegnante di sostegno se disabili. Quindi è un referendum che non chiede indipendenze, secessioni, chiede semplicemente se alcuni dei 23 poteri che la Costituzione prevede possano essere esercitati meglio a livello locale. Lombardi e Veneti vorrebbero esercitarli a livello locale, sul sostegno alle piccole imprese, sulla ricerca universitaria, sulla disabilità, e quindi è un sì o un no a una gestione, secondo me, più corretta, perché più vicino spendi i soldi ai cittadini, più sei controllabile. A parole tutti i partiti sono d'accordo, tutti, PD, 5 Stelle, Forza Italia, tutti, non ce n'è uno contrario. La differenza la fa chi andrà a votare e chi rimarrà a casa. Chi rimarrà a casa, ripeto, dice che va bene così com'è l'organizzazione dello Stato. Oggi il personaggio del giorno è il governatore della Catalogna, Puigdemont, che ha fatto questa dichiarazione strana e indipendenza. Sì, mi sembra, cioè, che abbia fatto un po' di pasticci. Però, ecco, no, prima ha dichiarato l'indipendenza e poi subito dopo l'ha sospesa. Lei che giudizio dà di questo atteggiamento? So che sicuramente la reazione del governo spagnolo di Madrid è stata incredibile e inaccettabile, perché puoi contestare l'incostituzionalità, l'invalidità, tutto quello che vuoi, però non manganelli la gente. E io spero che dialoghino senza più un solo colpo di bastone, un solo schiaffo, e concordino una sempre maggiore autonomia per un paese dove comunque 2 milioni di persone hanno votato per staccarsi. Io non voglio staccarmi da niente, da nessuno, tanto che lo stesso referendum che offriamo il 22 ottobre in Lombardia e in Veneto me l'hanno chiesto in Puglia, me l'hanno chiesto in Emilia, me l'hanno chiesto in Abruzzo, perché significa gestire a livello locale meglio alcuni poteri che lo Stato centrale non è in grado di gestire, né al nord né al sud. Quindi io spero che in Catalogna si mettano d'accordo, perché nel 2017 i problemi non si risolvono a bastonate o con proiettili di gomma. Anche se temo che si siano spinti tutti e due i fronti un pochino in avanti. Anche gli indipendentisti, secondo lei, hanno esagerato? Beh, sai, la carta dell'ONU riconosce il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Certo, nessuno ti fa i tappeti rossi, però se decidi di fare una cosa, vai fino in fondo. Le dichiarazioni a metà, poi però vediamo, poi aspettiamo un attimo e poi valutiamo, ripeto, lì c'è una realtà economica che ha un residuo fiscale di 8 miliardi nei confronti dello Stato centrale. Tradotto, i catalani ogni anno pagano a Madrid 8 miliardi in tasse che non tornano indietro. Marco, pensate che in Lombardia e in Veneto questa somma non è di 8 miliardi, ma arriva a 70. Sì, il 22 ottobre io non vado a votare da milanese per dire me li tengo tutti io. Però una parte di questi 70 miliardi, se posso reinvestirli in maniera più utile per strade, scuole, ospedali, sostegno alle aziende, alle piccole imprese, secondo me faccio una cosa utile a tutto il paese. Marco da Milano, primo ascoltatore in attesa, prego. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Volevo fare una domanda in merito a, appunto, questo referendum, visto anche la presenza di Salvini in diretta. Io quello che non mi domando è, se dovesse passare questo referendum sull'autonomia fiscale e quindi si dovesse poi andare a trattare con lo Stato e si raggiungesse questa benedetta autonomia fiscale per la Lombardia e il Veneto, se dovessero succedere ancora drammi come le banche venete, quindi il fallimento delle banche venete, o come la vicenda della Miteni che sta sversando prodotti chimici nelle falde acquifere, quindi intasando tutta l'acqua e provocando tutti i problemi che ci sono nel Veneto, questi disastri verrebbero a carico dell'Italia o sarebbero a carico solamente della regione Veneto? Quello che dico io è che in un momento dove drammatico come la presenza di calamità naturali o eventi catastrofici come questi, anche economici, non è meglio l'unità dell'Italia e non la disgregazione delle singole regioni? Però Salvini, che... sì, Salvini, giusto. Vuole rispondere lei? Ma Oscar probabilmente stava dicendo che nel testo del quesito, ecco, si parla proprio di unità del paese. Quindi, guarda, cioè, sono referendum che chiedono, ad esempio, sulla tutela del territorio. Preferisci che sia lo Stato centrale o sia il livello territoriale più vicino, in questo caso la Regione Veneto, ad avere i soldi e le competenze per occuparsi di gestione e tutela del territorio, di difesa dei corsi d'acqua e di tutela di tutto quello che ci sta crollando in testa? Io preferisco che sia gestito a livello locale, quindi non è un problema, ripeto, di secessione, è un problema di miglior gestione dei quattrini, di una politica che è più vicina e spende meno. Poi sulle banche, quando andiamo al governo, questi hanno approvato il salvabanchieri. Io vorrei vedere qualcuno che ne paga di tasca sua, perché io quando li vedo a Milano in Monte Napoleone a fare shopping con l'autista privato parcheggiato in seconda fila, gente che ha rovinato 300.000 risparmiatori che dalla sera alla mattina sono stati azzerati, come se fossero fantasmi, qualcuno ne dovrà pagare patrimonialmente e personalmente, evidentemente, a proposito di banche. Oscar, volevi aggiungere qualcosa? No, insomma, titolo informativo a chi ci ascolta, nelle materie elencate, che sono quelle su cui si può chiedere il rafforzamento dell'autonomia, non c'è assolutamente una materia che abbia a che vedere con intaccare le strutture nazionali di emergenza, la protezione civile, assolutamente no, o le forze armate, eccetera eccetera. Quindi chi vi mette nella testa questi dubbi o non sa di cosa parla, oppure può essere in malafede perché spinge a farvi stare a casa perché pensa che se c'è un voto in direzione di più autonomia locale sia è meglio evitarlo perché bisogna essere centralisti. Ecco, quindi state attenti, perché la domanda dell'ascoltatore testimonia legittima curiosità, ma non c'è niente di tutto quello. Sono materie molto importanti che hanno a vedere con l'economia, con il territorio, con la scuola, con la possibilità di realizzare sistemi sanitari più autonomi su alcune scelte di fondo, come è il caso della Lombardia rispetto al sistema nazionale, ma non c'è niente che intacchi strutture essenziali per le ragioni principali per cui esiste uno Stato, cioè la giustizia, la difesa, i confini e le calamità naturali. Lorenzo da Padova. Prego. Io sono un veneto con moglie spagnola e volevo intanto come dire, salutare con gioia che Salvini ha smesso di proporre l'indipendenza di questa pseudo entità chiamata Padania. Rispetto alla Catalogna, volevo dire questo. E gli indipendentisti catalani hanno sostanzialmente saltato tutte le regole che loro stessi si erano messi, cioè hanno detto referendum senza la maggioranza qualificata, l'hanno fatto senza i sindaci, ora lo proclamano di nascosto firmando un documento fuori dal Parlamento, cioè è una cosa che rasenta ridicolo e testimonianza è che il gruppo Pianeta dice domani stesso ce ne andiamo, cioè è una cosa... un'incertezza giuridica delle regole di qualsiasi cosa che giustamente secondo me cioè le imprese se ne vanno. Non so cosa farebbe Giannino se avesse un'azienda in Catalogna. Guardi, io come è noto ho a lungo spiegato le ragioni che spiegano la radicalizzazione dell'indipendentismo catalano e mi dispiace dire che l'informazione italiana le ignora, perché ieri ho visto un grande coro di consensi sui social a Rajoy. Per quello che mi riguarda, Rajoy è il principale responsabile di quello che è avvenuto in questi anni, e su impulso di Rajoy che la Corte Costituzionale spagnola nel 2010 si è rimangiata lo statuto concesso alla Catalogna nel 2006. La Catalogna ha iniziato a chiedere trattative per ripristinarlo, la risposta è sempre stata no, questo ha alimentato i radicalismi. A me non piacciono gli statisti che soffiano sul fuoco per questioni di propria leadership personale, so che è ovvio che la politica è questo, ma nel suo caso è stato Rajoy che ha portato la Spagna e la Catalogna all'esplosione del radicalismo contrapposto. Dopodiché, siccome so che la vicenda catalana risale addirittura all'undicesimo secolo, quindi non è inventata manco per niente, condivido l'opinione di Salvini. Se vai avanti fino a dire facciamo un referendum che sarà bocciato perché è anticostituzionale, ma voglio portare la gente a votare ed è una bella manifestazione di democrazia portarla a votare ed è pessimo farli manganellare, devi essere in condizione di sapere che a quel punto devi gestire un processo avendo detto alle imprese, alle banche eccetera prima, guardate, io non lo azionerò il giorno dopo perché so che altrimenti finirei subito fuori dall'Unione Europea e dall'euroarea e voi scappereste, cioè devi sapere esercitare un'azione di questo tipo poiché ha un impatto terrificante con un senso di responsabilità e una leadership empatica e non affidarti alle cose giorno per giorno, sennò vai allora a sbattere il muso. Ecco, ancora pochi secondi di pubblicità e poi torniamo con Giannino e Salvini. Mattino. Allora Salvini, adesso la faccio arrabbiare. A Pagazzano, nella bassa bergamasca, il sindaco ha commissionato un monumento alle vittime della Spagna, del terrorismo islamista, e praticamente è uscito fuori un monumento che ha i nomi sia dei caduti, delle vittime civili, sia degli attentatori. E poi sembra la spada dei Guerre Stellari, ma questo è un altro ordine di ragionamento. Veramente siamo alla follia in certi casi. Ricordati insieme con i nomi tradotti in arabo. Non mi sembra, particolarmente geniale. Peraltro è appena trascorso l'anniversario della battaglia di Lepanto, perché il confronto con l'Islam nella storia dei secoli è sempre stato un certo tipo di confronto. Invito chi ha dei dubbi ad andare a leggersi la Dichiarazione Islamica dei Diritti dell'Uomo, perché quando Salvini esprime alcuni dubbi non è che lo faccia perché si alza la mattina di cattivo umore, perché i paesi islamici non hanno mai sottoscritto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che sancisce le libertà, i valori, i principi, ma hanno la loro Dichiarazione Islamica sottoscritta a Parigi qualche decennio fa, dove si dice sostanzialmente in più articoli va bene la libertà di stampa, di pensiero, di parola, la democrazia, la giustizia, la donna, però tutto deve rientrare nell'alveo della legge islamica. Se non è previsto dalla legge islamica vale zero. E quindi permettetemi di avere dei dubbi sulla compatibilità fra due culture, per cui Gli insulti a quel marito che ha fatto vedere sua moglie che guidava in Arabia Saudita. Non è... Ma senza andare all'estremo dell'Arabia Saudita, però il problema ce l'abbiamo a Milano, a Torino, a Roma, con donne segregate in casa che non possono imparare la lingua, non possono andare a prendere i figli a scuola, perché l'interpretazione letterale, secondo loro, del testo di Maometto dice che la donna vale meno dell'uomo. Qua si parla di diritti dei gay, di unioni gay, unioni civili, in 9 paesi islamici c'è la condanna a morte o l'ergastolo. Quindi prima di dire facciamo moschee, fammi capire chi le finanzia e chi ci predica, perché non vorrei dare moschee a chi mi racconta che l'omosessuale va lapidato e la donna non può andare in bicicletta. Salvatore da Lecce. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io dico, c'era la nostra Costituzione italiana, l'onorevole Salvini, buongiorno. Buongiorno a lei. La nostra Costituzione italiana diceva che diritti e doveri ai cittadini, ma ormai io non vedo più nei diritti per i cittadini, vedo soltanto doveri, quelli di pagare sempre tasse. Non ci chiedono se vogliamo quel politico, non ci chiedono se vogliamo l'Europa, non ci chiedono più niente. Noi non possiamo più far niente. Abbiamo svenduto l'Italia all'Europa, svenduto, e siamo tutti quanti zitti. Però se qualcuno andrà a parlare con tutte le persone in mezzo alla piazza, quelle che lavorano e che non lavorano, in mezzo alle strade come me, su 24, sentirà di dire, e diranno tutti quanti, molti, molti milioni, l'Europa, non vogliamo... Allora, sta cadendo la linea, ma ho capito il senso, non vogliamo l'Europa, e chiede questo ascoltatore, forse conto a Salvini, se ancora c'è l'idea di fare un'altra moneta, un referendum consultivo o qualcosa per allontanarsi dall'Unione Europea. Cambiare l'Europa sicuramente sì. Adesso ero il solo euroscettico, mi dicevano 2 o 3 anni fa, adesso tutti si rendono conto che alcune normative europee, la direttiva Bolkestein, la direttiva sulle banche, le normative sull'agricoltura, le normative sul commercio, sono normative studiate per fregare l'impresa italiana. Ma l'artigianato italiano. Ma guarda, Oscar. Direi proprio di sì. Guarda, l'ampiezza della convergenza per autoassolvere guai italiani e collusioni schifose. Matteo, stai attento su questo, Oscar, perché tu sei immune da certe cose. Ma se lo dicono quelli delle altre aree culturali politiche, perché preferiscono dire che le banche vanno male per colpa dei tedeschi invece che per colpa dei banchieri italiani, amici loro? I banchieri italiani, alcuni banchieri italiani dovrebbero andare in galera. Le regole che i tedeschi ci hanno rifilato ce le hanno rifilate dopo aver sistemato parole sante. Il debito lo abbiamo fatto noi, no? Che parole oggi sante, sono, ma dai, salviniano. Ragazzi, oggi sono, sarete salviniani, ma non possiamo salviniano. Raccontare una cosa per l'altra. Il debito l'abbiamo fatto noi, la produttività la perdiamo noi. I tedeschi sono rigorosi, Salvini. Sì, ma non è che lo fanno perché c'è una missione divina, annullate l'Italia, dai, su. L'ultima parola a lei, Salvini, in pochi secondi. No, ma è chiaro che noi abbiamo la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, gli sprechi, la burocrazia in eccesso. Se a questo mi aggiungi delle regole europee che mi mettono fuori competizione, però voglio dire a Salvatore di Lecce che non tutto è perduto. Non rassegniamoci. Se io fossi rassegnato, se io pensassi che fosse troppo tardi per salvare questo paese, farei un altro mestiere. Invece cambiare si può, seguendo la democrazia, quindi votando, senza manganellare o senza far casino, ma cambiare le regole europee si può, e io e Oscar ci troviamo a mezza strada e alcuni trattati li riscriviamo insieme. E rilanciare l'economia in Italia si può. Salvini e Oscar che riscrivono i trattati insieme, un gran finale, ci sentiamo domani, grazie al segretario Lega Nord, saluto a tutti da parte dei cani e dei gatti. Ciao caro. Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Vi ha presentato 24 mattino.